Il Tribunale di Bologna ha accolto le nostre richieste di misure cautelari rispetto al sequestro dell'azienda, rispetto alla manufacturing, per capirci, anche perché prima di quella che sarà l'eventuale nomina di amministrazioni straordinari è necessario avere dei custodi aziendali per evitare che il processo di liquidazione di Londra prenda una piega che impedisce nei fatti la riattivazione della produzione. Poi c'è stato anche l'accoglimento della nostra richiesta di sequestro preventivo del marchio, anche perché riteniamo che marchio e lavoratrici devono andare di pari passo, perché un marchio senza le professionalità di La Perla sarebbe un marchio nei fatti svilito economicamente, non varrebbe nulla, così come è necessario che non venga in alcun modo sfilata la produzione alle lavoratrici che abbiamo sul nostro territorio, che hanno il reale know-how di specializzazione dell'azienda. Quindi di fatto in questo modo si è ostacolato, come dire, il tentativo di tenersi il marchio e scaricare le lavoratrici. Bravissimo, detto in estrema sintesi è quello, e l'obiettivo che volevamo raggiungere era esattamente questo nella fase intermedia che stiamo vivendo. Quindi al momento abbiamo scongiurato questo pericolo, e considerando che l'azienda in questo periodo è anche chiusa per le festività natalizie, abbiamo anche scongiurato di trovarli i cancelli chiusi al rientro a gennaio delle maestranze. Con questo provvedimento che ne sarà ad esempio degli stipendi che le lavoratrici non hanno da alcuni mesi? Noi speriamo che questa operazione consenta di risolvere questo problema, che è uno dei problemi principali che abbiamo. È da ottobre che le lavoratrici non hanno lo stipendio, quindi per capirci in questi giorni maturano il terzo stipendio non pagato. Finalmente abbiamo degli interlocutori, anche perché tra le funzioni riconosciute ai custodi c'è quello del recupero dei crediti e del pagamento dei debiti. Conseguentemente i debiti sono gli stipendi dei lavoratori, per quello che ci riguarda. Quindi auspichiamo una risoluzione in tempi brevi anche del pagamento delle retribuzioni, perché come si può ben capire non si lavora per hobby, si lavora per necessità. Se non arrivano gli stipendi alle lavoratrici, il rischio è che noi abbiamo una materiale dispersione di queste maestranze, che per quanto qualificate e attaccate al marchio La Perla, e devono tirare a campare come tutti quanti, e senza retribuzione è impossibile. Speriamo che questa operazione consenta di accelerare anche questo processo. Quali sono le prossime tappe, i prossimi step, visto che una data fissata è il 19 gennaio? Il 19 gennaio ci sarà l'udienza, un'udienza che terrà insieme il pezzo della manufacturing, che è la parte produttiva per capirci, e il pezzo della management, che è la parte delle funzioni di staff, ed è la prima udienza nella quale si tratterà congiuntamente tutta la partita. In quell'udienza ci dovrà essere anche l'indicazione di eventuali nomi da parte del Ministero per l'amministrazione straordinaria, perché i nominativi li deve indicare il Ministero, quindi siamo fiduciosi di riuscire a portare avanti questa partita. È soprattutto più tranquilli adesso, misure cautelari sono state accolte. In queste ore presenteremo il ricorso anche per le lavoratrici di La Perla Italia, che sono le lavoratrici della rete retail, che non hanno avuto la retribuzione in ottobre, l'avevano avuta, quindi non hanno partecipato al percorso dalle prime fasi, ma lo faranno nelle prossime ore.